Zeus. Ah. Oh, 2010. E se non mi sono ancora fermato, c'è un cazzo di motivo. Col rap non vivo, col rap mi esprimo. Quindi schiaccio play e continuo. Questo è perché fare un freestyle è come vivere un'emozione. Ma scrivere una canzone è come scattare una fotografia. E quando la riascolto è come se vengo portato via da una magia. Tu dimmi sotto la vita mia. Io vivo sotto il boom boom chak. Non vado a boom cha cha, quindi vado fuori di qua. Ci sono sere in cui non so quello che faccio, quelle sere in cui ti rendi conto di essere un marcio. Quindi schiaccio ogni pagliaccio che si mette di intralcio. Al mio passaggio paga pedaggio. Amico di tutti e amico di nessuno. Accendo una torcia se passo un momento buio. Il tuo commento è inopportuno. Sei così sfigato che la tua tipa t'ha scaricato dal muro. Tu non hai rime nella testa, io ne ho una tempesta. Se pensi di battermi è triste, china la testa. Come nelle riviste, la folla poga scateniamo risse. Mi basta la notte, il contrario del sul sound system. Ci provo ma la strada è lunga. Ci sono mille sentieri in questa giungla. Come una scarica elettrica di folgora. Ma in questa vita me la sono presa comoda. Per ora siamo il meglio, credici nella scena. Torna anche 13, si riparte. Il mio cammino ascesa verso i vertici. Il mio cammino ascesa verso i vertici. E ancora la mia lingua è una pistola che vi perfora. Vi rimando tutti a casa come alla fine dell'ora. Sottometto ogni netto schiacciandolo come un insetto. Non ti sputo in un occhio se no ti disinfetto. Faccio brutal, porto roba occulta. Faccio più incastri che impasti e la folla che esulta. Battermi è come tentare di arrivare in centro all'ora di punta. Lascia perdere perché Zeus la s'allunga. Niente felicità, questo non è il bosco dei 100 acri. Qui è dove per ogni singola mossa si viene giudicati. Chiamalo mondo di merda, io lo chiamo terra dei massacri. Sfigati, voi i vostri testi tirati. La mia gente sa di chi parlo. In un mondo di pirati c'è un solo Jack Sparrow. Quindi brucio con lo sguardo ogni singolo bastardo che si crede un rapper solo perché c'ha il jeans largo. Dilanio corpi con forti colpi. Ho imparato che non serve essere leoni ma serve essere volpi. Quando entro con il mio flow porto rime pura follia. Forbid and Rhymes, un nome, una garanzia. Ci provo ma la strada è lunga. Ci sono mille sentieri in questa giungla. Come una scarica elettrica di folgora. Ma in questa vita me la sono presa comoda. Per ora siamo il meglio, credici nella scena. Torna anche 13, si riparte. Il mio cammino ascesa verso i vertici. Il mio cammino ascesa verso i vertici. Ascesa verso i vertici. Ascesa verso i vertici. 2010 ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici, ascesa verso i vertici.